succede qua. Con la K carico di quello che dico, poi me ne faccio carico. Per dimostrare la mia tesi non ho bisogno di un attentato, ma ho bisogno di un attestato per capire ciò che chiedi. Combatto stile Street Fighter mentre sorteggio Jägermeister. Raro drago forte slifer, sputo fumo nero geyser. Tutti a fare il rapper, rimo forte scala reaper. Mixo a vodka e Dr. Pepper, mangio pane, bar e mixer. Devi crescere ancora, la tua critica non mi sfiora. Invece il mio flow riavvalora, se lo tocchi ti ustiona. No, non mi dire di no, non lo piango perché mi fa schifo. Bene, ma la morte crea ipocrisia come quella di Pinarnia. So di essere un cane pazzo, ma grazie al cazzo tu sul rapper pacco. Tu rap è fiacco, delle critiche me ne sbatto. E scusa, così son fatto. Mentre io spacco, tu no, tu la cosa, io the flow. Sono una roccia come The Rock, per quello che so faresti la fine dell'epto. Rise above and in your hate, I find love, cause I'm a survivor. I am a fighter. I will fall. Rise above and in your hate, I find love, cause I'm a survivor. In faccia e drammi, fuori diamanti, de forza dammi. Il tempo che ti resta incida la metà dei miei anni. Da anni non vedo là fuori alcuna opportunità, ma combatto a denti stretti per una fottuta chance. Quindi fight, ti spacco il culo, fight. Il giorno in cui mi batti tornerà di moda il gabber e il generale Raber che ordina il massacro. Quindi è chiaro che ti sparo, sono un fottuto sniper. Nel suolo giace il sangue di chi non c'è più, ma resta il segno di chi ha voluto combattere. Lascio i segni sul tuo volto, giuro non ne posso più. Quindi lascio un segno e dopo segno la tua lapide. Combatta la vita, non esiste scorciatoia. Che io vinco o perda, resterò un bastardo senza gloria. Te la chiudi in bellezza se non mi inchino a ste merde. È perché l'ho già fatto da tempo per la mia signora. Rise above and in your hate, I find love, cause I'm a survivor.